Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Caramelle non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini questa sera. Mi va se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Ogni giorno pronunciamo fiumi di parole, centinaia e centinaia, forse migliaia. Parliamo nella veglia e nel sonno. Parlare ci viene naturale e ci piace. Le parole creano immagini e con le parole creiamo legami e relazioni. È anche vero che parliamo anche quando non sarebbe necessario e che spesso non consideriamo il peso delle parole e il loro impatto, ma siamo animali parlanti e come tali usiamo le parole. E a proposito di parole, voglio subito presentarvi con le parole giuste il nostro ospite, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti, bentrovata. Le parole ci raccontano di noi e ascoltando le parole della persona con cui parliamo, possiamo trarre delle informazioni molto utili su di lui. Su questo non c'è dubbio, le parole sono la base della conoscenza, ma per un medico forse ancora di più. Si usa a dire che occorre lasciare parlare il paziente, perché il paziente ti porta sul luogo del delitto. Figuriamoci per un neurologo, perché io ovviamente sono di parte. Il paziente ti porta sul luogo del delitto, ma noi da buoni detective indaghiamo il contenuto e anche la forma. Il contenuto, che cosa viene detto? Molto spesso che cosa non viene detto? E a volte, lo sappiamo tutti, cosa viene detto di troppo. Però siccome la forma è sostanza, importantissimo per noi è anche vedere come venga pronunciato il suono, questo proprio nell'ambito di alcuni disturbi, non solo emozionali ma anche neurologici puri, il tono e anche il timbro. Insomma, bisognerebbe che un buon neurologo, speriamo di esserlo, avesse un orecchio come un lettore di codice a barre, in grado quindi di identificare non solo il prezzo, cioè il significato immediato, ma anche l'articolo, lo scaffale di provenienza, le scorte di magazzino, insomma, un po' chi più ne ha più ne metta, andare alla radice della conoscenza del problema del soggetto. Vi siete mai chiesti, e lo chiedo anche al professor Barbanti, ma soprattutto agli ascoltatori, perché vi può capitare di ascoltare una conversazione in inglese, di comprenderla ma di non riuscire a rispondere? E di vedere magari il vostro cagnolino eseguire un comando, però lui non parla? È tutta una questione di centri. Il linguaggio ne ha due, un centro traduttore e un centro produttore di parole. Allora forza, datevi da fare, trovate la parola o meglio il nome giusto di questi due centri e chiamateci 800 24 00 24 e naturalmente potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Intanto che voi ci pensate, noi continuiamo a parlare. Le parole producono sempre un effetto, ci sono parole che ci tranquillizzano, che ci fanno piacere, parole che ci irritano, ci infastidiscono, a volte basta proprio una parola. Vi siete mai chiesti perché? E qual è la vostra? Qual è quella che più vi piace e quale invece è quella che più vi irrita? Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto. Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America, per cui in Italia non... È stupenda questa battuta. Non è una battuta, non era una battuta. No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi. Ma che dice? No, forse ho toccato un argomento che non... L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione, preferisce... matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? Rapporto in crisi, però è così kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come parla? Anche se il mio ambiente è molto cheap. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? Oh! Come parla? Come parla? Le parole sono importanti! voi come parlate? In linea con noi abbiamo la dottoressa Francesca Dragotto, ricercatore nel settore glottologia e linguistica all'Università di Roma Tor Vergata. Buongiorno, professoressa Dragotto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Come parla? E ci sono delle parole che ci irritano anche solo a sentirle pronunciare, al di là del loro significato. Beh sì, le parole siamo anche noi siamo uomini di parole, come già è stato detto, e le parole recano tracce di chi siamo, delle esperienze che abbiamo fatto, di quello che anche dal punto di vista queste esperienze ci hanno lasciato, e quindi inevitabilmente associamo a quello che è il significato condiviso da tutta la comunità parlante un pezzettino di significato che per ciascuna parola è diverso per ciascuno di noi. Professoressa Dragotto, ci sono anche dei suoni che ci irritano, proprio il suono di alcune parole. Abbiamo delle componenti che sono addirittura più invisibili e più piccole dei singoli suoni, perché noi siamo abituati a considerare il suono come il mattoncino base a partire dal quale si formano le unità successive. In realtà il singolo suono, ad esempio una A, una M, è frutto dell'intersezione di caratteristiche articolatorie e quindi anche acustiche differenti, e la frequenza di queste legata a queste caratteristiche che si ottiene mescolando queste caratteristiche produce in noi degli effetti, delle risposte anche istintive differenti, ed è per questo che associamo molto più favorevolmente l'idea di piccolo, di carino, di grazioso a parole che contengano i suoni I piuttosto che a parole che contengano o ancor più U. Una riprova è il linguaggio degli innamorati, oppure le parole ricchissime di diminutivi con cui le madri o i genitori in generale si rivolgono ai propri bambini, il cui linguaggio è in via di consolidamento. Sto facendo riferimento al madrese o baby talk, come viene chiamato in letteratura scientifica, ovvero quella sorta di area franca in cui il bambino sviluppa la propria competenza e in cui l'adulto pensa di facilitare questo sviluppo adottando i coni del bambino, adottando la sua grammatica ancora allo stato nascente, ma comunque non per questo non corretta. Professoressa Dragotto, il professor Barbanti ha detto che un buon neurologo deve essere un lettore delle parole, come un lettore di un codice a barre, comprendere il valore di ciò che sta dietro. Un linguista? Il linguista, beh, secondo me è un po' il meccanico delle parole, però il meccanico sia nel senso di colui che è in grado di assemblare i pezzi, di dire come si assemblano e soprattutto perché si assemblano, perché in quel modo, perché la grande sfida è cercare di capire la ragione per cui la parola, che è il risultato di un processo che affonda nella struttura e nelle funzioni del cervello, appunto per quale ragione poi sia costruita in quel modo e in quella certa lingua, per cui condivido completamente l'idea del codice a barre, anzi dirò di più che ci sono ambiti interdisciplinari molto interessanti in cui chi proviene dalla psicologia e dalla neurologia collabora con chi proviene dalla linguistica, e in cui si cerca anche di vedere nell'ambito dell'applicazione di terapie, quindi nell'ambito clinico, se la parola sia in grado addirittura di guarire o comunque di far capire qual è la disposizione del paziente nei confronti della cura che il medico sta proponendo, perché scegliere un verbo al posto di un altro significa rivelare quello che è il nostro atteggiamento e, appunto, come diceva il professore, anche la scelta dei suoni, una particolare inflessione, una particolare intonazione, tutte componenti queste che accompagnano l'elocuzione, quindi non parliamo dei suoni ma di modalità che accompagnano la produzione dei suoni, modalità che hanno poi a che fare, guarda caso, con l'emisfero destro, quella parte del cervello che non è legata in se alla componente razionale del linguaggio, ma alla produzione in un contesto comunicativo del linguaggio, quindi a quello che accade quando non pensiamo alla lingua ma quando la usiamo a scopi comunicativi, quindi guardare a quello che succede dal punto di vista dell'intonazione, del timbro, l'esitazione, tutte quelle caratteristiche. In fondo, professoressa, sì, potremmo dire: dimmi come parli e ti dirò chi sei, cosa chi fai sei, e cosa hai fatto, pensi, chi hai frequentato, cosa ti piace, cosa e il professor Barbanti potrebbe dire come stai. Professore, noi a volte ci misuriamo con le parole, però le parole a volte mancano, si intrecciano, parole diventano mancanti o ne mancano un pezzo. Lei potrebbe, come neurologo, fare addirittura una diagnosi, ma ci aiuti un po' a capire quali cambiamenti nel nostro modo di parlare possono suonarci come delle spie? Beh, non è tanto il tipo di cambiamento a volte che suona come spia, quanto il fatto che il cambiamento non sia episodico, ma sia prolungato. Perché vede, nel cercare di parlare, chissà quante volte prenderò una papera nel corso della nostra chiacchierata, la nostra testa deve fare un curioso sforzo, deve andare nella libreria della semantica rapidamente, in qualche frazione di secondo, tirar fuori il volume giusto del significato. Dire tavolo anziché sedia, ma se faccio molto in fretta dirò sgabello anziché tavolo. Poi deve andare nella fonemica e tirare fuori la lettera e poi la sillaba, ed ecco che possono partire degli errori così frequenti nei grandi parlatori, che sono le parafasie. Parafrasie sillabiche, talovo anziché tavolo, queste le dicono tutti i bambini perché il linguaggio in loro incomincia a maturare. Altre volte parafrasie solo letterali, tavolo anziché tavolo. Beh, questi sono degli affetti che, qualora siano nel corso della vita del soggetto ripetuti, possono far pensare che non sia lo stress e la velocità la causa, ma probabilmente il centro del linguaggio. Volevo dire però, se mi è permesso, una piccola cosa, perché parliamo di contenuto, ma quanto è importante la forma? C'era una vecchia pubblicità che diceva basta la parola, direi basta il suono. Noi viviamo anche solo nella nostra gioia e nella nostra socialità di suono. Quando sentiamo la voce della nostra mamma, se la mamma è anziana, a noi basta sentirla bene, può anche dirci le solite cose. Oppure pensiamo quando riusciamo a essere emozionati cantando canzoni in inglese, magari non lo conosciamo, o ancora meglio la canzone di Celentano, lei se la ricorda? Qual era? Prison Calling and Sinanciuso, non voleva dire niente. Veniva cantata da tutti, grande emozione. E poi noi prendiamo un suono. Sfido chiunque di noi ad andare a vivere in un'altra città e non prendere nel tempo quella inflessione per sentirci in mezzo agli altri il suono come elemento legante, il suono come amalgama sociale. Abbiamo in linea con noi Maria dalla provincia di Viterbo che ci chiama all'800 24 00 24. Buongiorno Maria, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ecco, una parola che mi irrita, una congiunzione, piuttosto che usata al posto di oppure o. E questa congiunzione è usata spesso nella tua trasmissione, Nicoletta, che sì, è una trasmissione interessante. Mi avete massacrato un ospite per il piuttosto che, il carissimo dottor Confalonieri. E sono contenta perché genera confusione. Quando mi dice mangi una banana piuttosto che una mela, significa invece della banana mangi la mela. Così si genera confusione. Capisco che al nord la usiate in questa maniera, ma... Allora, facciamoci fare una mini lezione della professoressa Dragotto. Maria ci ha già raccontato l'uso corretto del piuttosto che. Professoressa Dragotto, ci saranno altre parole che usiamo nel modo sbagliato? Professoressa. Sì, tra l'altro il caso del piuttosto che è un caso davvero interessante perché parliamo di una forma che è stata stigmatizzata dalle accademie che si occupano di lingua e che era stata giudicata come una forma occasionale destinata a perire e a rientrare nel giro di pochi anni. Invece la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione ci sta dimostrando che non è assolutamente così. Il motivo per cui la signora Maria si sente così violata nella sua competenza di parlante è perché non ritrova il secondo elemento di comparazione, quindi il fatto che si sia sviluppato un uso giusto a positivo, quindi come diceva lei e non più questo che quello, chiaramente turba chi è legato ancora al significato normato, cioè al significato socialmente accettato nella norma linguistica. Ora andiamo a toccare la questione dell'errore, di che cosa sia l'errore, di come nasca, perché in principio gli errori sono delle produzioni alternative, delle varianti alla forma che ci attendiamo, varianti che però se vengono accettate dalla società parlante, dalla comunità, possono, ai noi, o per fortuna, dipende dal punto di vista, diventare la nuova norma nel giro di una o due generazioni. Per cui si assiste ad un continuo conflitto tra chi cerca di mantenere la tradizione e le forme ritenute più corrette dalla tradizione, forme che però sono alcune tra le tanti possibili per dire una certa cosa, e chi invece, inseguendo ragioni che hanno anche a che fare con la componente psicologica, oltre che con la capacità, l'autorità e l'autorevolezza del parlante nel creare neologismi, che poi possono essere occasionali o meno, porta appunto ad una deriva rispetto alla norma. Ce ne sono tantissime e alcune ormai sono diventate sistematizzate nella nostra lingua. Vi faccio semplicemente alcuni esempi. Pensate a mese, l'aggettivo di mese è mensile, allora ci si potrebbe chiedere perché non mesile, oppure perché non mense invece di mese? E naturalmente una risposta al parlante non è disponibile se non andando a scavare nella storia di queste parole, perché poi la lingua è il ponte, la finestra verso il pensiero, verso il nostro modo di immaginare la realtà, ma è anche il ponte verso la storia, verso la cultura, verso appunto una tradizione che ha visto le abitudini di chi si è servito della lingua modificarsi per effetto di tante pressioni. Insomma, parlare ci viene semplice, ma se ci pensiamo, se mettiamo insieme tutte le informazioni che ci stanno dando i nostri esperti, ci sembra una cosa assolutamente complicata. Professor Barbanti, noi sappiamo che siamo programmati per parlare e ci sono delle aree deputate al linguaggio, su queste abbiamo proprio fatto il nostro quinzettone. Beh, abbiamo detto che il linguaggio ha due centri, uno traduttore e uno produttore di parole. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di dirci il nome di questi due centri, ma nel cervello, quando parliamo, che cosa succede? Beh, innanzitutto questi due centri sono stati fatti sposare, perché una volta erano single. 1,5 milioni di anni fa hanno cominciato a fare le prime prove di fidanzamento, che sono poi convolate a nozze 400.000 anni fa, e si chiama fascicolo arciforme. Il prete che ha benedetto queste nozze, vediamolo in forma laica, l'ha detto comunale. Un attimo solo, Nicoletta, posso tornare un pezzettino indietro al piuttosto che? Sì. Io avrei una spiegazione. Piuttosto che, sono quattro sillabe, prendo fiato, più che altro prendo tempo, se dico o impiego un secondo, un po' la storia di Ciro che esce fuori, se no esce fuori scostumato, come diceva Troisi, e quant'altro, quante volte dicono quant'altro, tre sillabe sono maniere con le quali noi prendiamo tempo e pensiamo alle cose successive. Secondo me lì casca l'asino. Il dottor Confalonieri lo seguo sempre, anzi spererei di fare le cose che dice, è diventato ormai un modo comune di espressione. Però ho perso il filo a proposito di parole, me lo può ripetere però, la sua domanda? Però il che cosa capita nel nostro cervello quando emettiamo tutti questi fiumi di parole? Abbiamo visto che deve essere una cosa molto veloce, perché istintivamente cerchiamo il tempo per pensare, ma nel nostro cervello succedono tantissime cose. Ah sì, beh, sostanzialmente i centri del linguaggio sono investiti dal pensiero, perché i centri del linguaggio sono come gli stenografi del Parlamento, cioè scrivono rapidamente ciò che viene detto, e quindi perché si possa parlare bene e capire bene dobbiamo avere un buon pensiero alle spalle, non troppo affastellato, non troppo rapido, una buona emotività, altrimenti facciamo scena muta, come di fronte a una fidanzata a cui vorremmo dire ti amo, o peggio ancora a un professore a cui vorremmo dire qualcosa. E successivamente vengono messe in atto in periferia, sotto i centri che hanno sopra di loro il pensiero, vengono messe in atto tutte quei meccanismi chiamati pneumo, fono, articolatori, che consentono di dare un bel mantice toracico, una buona espressione, scandire bene la parola. Pensate, c'entra anche la saliva, perché sono molto emozionato, lo diceva Fantozzi, la salivazione è azzerata e si capisce dalla difficoltà dell'affluenza della mia parola anche il mio stato emotivo. 800, sì, prima dei mercati? Solo una cosa, quando sentivo dire parole usate così in maniera non sempre corretta, il dunque Io avevo un professore che se cominciavi a dire dunque, diceva col dunque si conclude, torni la prossima volta. Non voleva che si cominciasse mai così la risposta agli esami. E voi continuate a scriverci al 349-238-6666. Potete intervenire al nostro numero verde 800-24-0024. Parole a 360 gradi, che cosa ci suscitano, che cosa ci raccontano. Dubbi anche sulle nostre parole, anche sul modo di parlare, sulle parole che non vengono, sulle parole che più frequentemente sbagliamo. Adesso, a forza di parlare di parole, temo di dire qualche parola sbagliata, ma no, perché adesso è tempo di andare ai mercati al meteo e poi di ritornare subito dopo insieme con i vostri fiumi di parole. Essere e benessere. Andiamo avanti con gli scioglilingua. Va bene, subito. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a cala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 centini andarono a 30 tutte e 33 trottando. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a cala a mangiare la palla di pelle di pollo fatta da pelle figlio da pollo. 33 centini andarono a 30. No, per me questo qui è un fenomeno. Sciogli lingua, è facile inciampare, professor Barbanti. Le parole esatto. Devono essere veloci e precise. A volte rischiano di essere liquide però le parole. Lo scioglilingua serve per verificare la velocità d'espressione. Lo scioglilingua è un qualcosa di irrisolvibile. Mi chiedo sempre come facesse Sordi in quel meraviglioso film anche a non incerticare mai. C'è un limite tecnico, un limite meccanico e noi come neurologi molte volte vediamo questa capacità fonoarticolatoria che poi chiamiamo disartria quando non sia mantenuta, che ci può guidare addirittura verso alcune malattie. Per esempio ci sono sia le malattie cerebrovascolari, ma anche le malattie del movimento, tra queste in particolare il Parkinson, che possono avere anche sintomi di questo genere. Ecco, ricordiamoci proprio che il 24 si celebra la giornata nazionale del Parkinson, molti sono i centri aderenti e quindi potete rivolgervi a loro per avere delle informazioni. C'è un sito, lagiornataparkinson.it, così ricordiamo questa giornata importante. Dottoressa Dragò, con lei proprio abbiamo fatto un approfondimento sullo scioglilingua. Ce ne sono alcuni che divertono molto i nostri bambini. Possiamo considerarli una sorta di palestra? Sì, tutto è utile per sviluppare la capacità di produzione. Del resto su ogni lingua noi sviluppiamo parallelamente, anche se in tempi differenti, quattro competenze che richiedono funzionamenti diversi anche da parte del cervello, quindi si impara prima a comprendere, poi a parlare e poi solo successivamente a leggere e a scrivere. E i giochi di parole possono risultare utili per il rafforzamento di ognuna di queste quattro competenze. A proposito di bambini, tra poco ci collegheremo col professor Giacomo Stella, professore di psicologia clinica all'Università di Modena e Reggio Emilia e fondatore dell'Associazione Italiana Dislessia. Se avete dei bambini piccoli e volete sapere qualche cosa sul loro linguaggio, se volete capire se hanno delle difficoltà o se volete verificare se le difficoltà che hanno nel pronunciare alcune parole o nel ripetere possono darvi delle indicazioni, iniziate pure a fare le vostre domande all'800 24 0024. Intanto andiamo a Michele da Bari. Buongiorno Michele. Sì, buongiorno. Grazie per l'opportunità. Sentivo in una trasmissione precedente che l'uso delle cartoline e delle lettere ha sviluppato la lingua italiana nel territorio nazionale. Sì. Mi chiedevo, adesso la nuova generazione sta utilizzando molto l'uso degli SMS, dei messaggi con tutte queste parole criptate, abbreviate e quant'altro. Se questo non fosse il modo per avere l'effetto contrario, cioè distruggere la lingua italiana. Una risposta da un neurologo che è il professor Barbanti e poi andiamo al nostro meccanico delle parole. Professor Barbanti. Ma questo è un problema che stiamo già affrontando. Tra le varie cose non solo storpiamo le parole, ma dimentichiamo, non usiamo più la penna per scriverle e lo scrivere, scusatemi se mi sposto dalla parola detta alla parola scritta, lo scrivere gratifica il cervello e c'è un'area che è il giro fusiforme che si attiva in queste condizioni. Chiunque di noi se ha una penna in mano cerca una penna bella perché è gratificante farlo. Questo si sta forse piano piano perdendo nel corso del tempo. Quindi da un lato un neologismo che si va così diffondendo, dall'altro una passione che si va perdendo, perché scrivere le parole, non solo pronunciarle, vergarle a mano, è per il nostro cervello un piacere immenso. Professoressa Dragotto? Anche solo Francesca va benissimo, visto che ormai ho Radio 24. È di casa, Francesca, allora? Sento di casa. La domanda è stata quanto mai interessante, perché la diffusione dell'alfabetizzazione in Italia grazie alla scrittura di lettere e cartoline dal fronte è un argomento noto a poche persone. E quindi grazie innanzitutto per aver permesso questa domanda. Dopodiché, cercando di rispondere sinteticamente, dirò che non si tratta di un impoverimento, perché abbiamo la capacità di adattare la lingua ai mezzi di cui ci serviamo per comunicare e soprattutto nel caso della comunicazione veloce, quindi chat, sms, quando accorciamo non accorciamo a caso, lo abbiamo visto anche con il gioco della lettura, l'occhio va a captare nell'ambito del corpo di una parola soprattutto quegli indizi che sono rivelatori del significato lessicale, ciò di cui sto parlando, e del significato grammaticale, quindi categoria di genere, sia singolare o plurale o maschile o femminile. Quindi in sé non è un impoverimento, l'impoverimento è semmai saper scrivere soltanto nella modalità adatta a una chat o a un sms. La scrittura, condivido, è un piacere, però è un piacere che si paga in termini di in termini di capacità di acquisire non solo la capacità di scrivere, ma anche di scrivere bene e in conformità con quello che la grammatica o le grammatiche della lingua richiedono, per cui nessuna criminalizzazione della scrittura veloce, purché però si curi anche quella più tradizionale. E a proposito di parole, a volte proprio non vengono. Noi vorremmo parlare, ma non troviamo quelle giuste. E cade il gelo. Avete mai provato questa sensazione un po' di imbarazzo quando, ad esempio, siete in ascensore con uno sconosciuto e insomma non sapete che dirgli, o incontrate un collega in metropolitana e non sapete se avvicinarlo o no? Insomma, una sensazione di disagio ci invade. Che cosa fare? Essere noi a iniziare a salutare, a raccontare qualcosa, e se poi il nostro amico conoscente lo prende come un'invasione, insomma, comunque un po' di imbarazzo si avverte. Volevamo sapere l'opinione del nostro esperto, dottor Aquilar, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno agli ospiti e agli ascoltatori. Psicologo e psicoterapeuta cognitivo, oltre che esperto del nostro Daily Lab. Dottor Aquilar, che cosa si fa? Si parla o si fa finta di nulla? Si guarda altrove? Ma intanto si comunica col non verbale, perché il non verbale rappresenta gran parte della comunicazione, e già dal gioco di sguardi possiamo avere qualche informazione su cosa sia più opportuno fare. Subito dopo si segue l'emozione, e quindi se abbiamo voglia di fare un cenno di saluto o anche eventualmente di mostrare l'imbarazzo, perché mostrare l'imbarazzo può essere molto carino dal punto di vista comunicativo. Se mostro imbarazzo, io sto rappresentando che tu sei qualcosa di importante per me, altrimenti non sarei imbarazzato. E terza cosa, possiamo dirci una banalità. Le banalità da ascensore, le banalità sul tempo, le banalità sugli eventi comuni, apparentemente non hanno significato, ma in realtà sono carezze verbali, appunto, non invasive. In qualche modo vogliamo significare che ci rendiamo conto che c'è quell'altro, che lo prendiamo in considerazione, e con una banalità sul tempo gli stiamo dicendo: mi sei simpatico e non ti voglio invadere. Grazie, dottor Aquilar, lei ha sempre la soluzione. Speriamo. Buona giornata, a presto. Noi a presto, anzi, andiamo, cerco di correggermi, perché l'amica Simona da Firenze mi fa notare, mi chiede: ma lei non ha paura di sbagliare? Sì, che ho paura di sbagliare. Purtroppo il professor Barbanti e anche la dottoressa Dragotto lo confermeranno. Io non ho la fortuna come Simona di vivere a Firenze e quindi di avere già questi suoni della lingua madre, e cerco di arrangiarmi, studio, ma con pochi risultati. Simona, un abbraccio, andiamo a sentire i mercati. Essere e benessere. Voilà, vede, professor Barbanti, che mi sono impaperato. Ho detto una parola al posto di un'altra. Sapevo che c'era la viabilità, ma ho lanciato i mercati. Vengo da lei? Ma direi di no, perché lì non credo che sia l'emozione, lì era la fretta, insomma, questo è anche per questo vige il condono, però stavo pensando quale fosse in realtà il pregio della sua voce, che è molto riconoscibile, una meraviglia della sua maniera di parlare, abbiamo persone più titolate di me per qualificare questa sua caratteristica, è che in lei suonano le singole sillabe e il concetto squilla meglio. Parla rapidamente, ma facendo squillare le sillabe, e questo è un aspetto, secondo me, molto importante, oltre evidentemente alla sua professionalità, ma che rende la sua voce un perfetto colorario delle sue parole. Va bene, allora ha riportato un po' in pari la critica costruttiva della nostra ascoltatrice, la ringrazio. Abbiamo Emanuela che ci chiama da Bologna e poi Alessandro da Monza. Buongiorno Emanuela, benvenuta. Buongiorno Nicoletta. Senta, sto ascoltando con molto interesse questa cosa perché io ho sempre avuto una grande capacità di linguaggio. Mi capita una cosa strana, adesso l'emozione un po' mi tradisce, ma con chiunque io stia parlando, anche in base al ceto sociale, alla cultura, eccetera, io riesco sempre a, è come se davanti mi comparisse un grandissimo vocabolario e io riesco a pensare e a trovare le parole giuste. E io adoro comunque la comunicazione, le persone, cos'è? Cioè, ho sempre avuto questa capacità, anche la mia psicologa mi dice, hai una capacità anche di fare esempi, di sintetizzare, niente, questo volevo dire. Questa dote naturale, professor Barbanti, è dote naturale? Io la chiamerei intelligenza. Brava Emanuela! Non è una battuta e non sono qui a fare encomi, ma è dimostrato che il quoziente intellettivo femminile ha una correlazione con la densità dei neuroni nel centro del linguaggio, che notoriamente nella donna è spaventosamente sviluppato. Quindi questa capacità di utilizzare parole, suoni, linguaggi, di vedere addirittura quasi in maniera visiva ciò che accade implicitamente nello scartabellamento dei nostri pensieri attraverso significati, fonemi e così via, è una dimostrazione, secondo me, di una particolare vivacità intellettiva di Emanuela. Donne battono uomini. Su questo sicuramente sì. In linea con noi è arrivato il professor Giacomo Stella. Buongiorno professore. Stella o Stella? Buongiorno. Adesso come con questo come vuole. In un caso, in un modo o nell'altro, a seconda della flessionalità regionale. Ok, professore. Non ha influsso però sul significato della parola. Ok, quindi l'apprendimento del linguaggio procede per tappe, tuttavia il tempo necessario per raggiungerle è variabile. Ogni bambino, professore, ha i suoi tempi. La precocità non ha nulla a che vedere col quoziente intellettivo, vero prof? Allora, la precocità ha sicuramente a che vedere con l'ambiente, anche con le qualità del sistema che organizza la funzione, quindi con il cervello, la mente e anche il livello cognitivo. Professore, i nostri... Ci sono tutti e due i fattori che interferiscono con lo sviluppo del linguaggio. Alessandro da Monza, buongiorno. Buongiorno. Venga la domanda, sì. Io ho un bambino che ha appena compiuto 5 anni, ogni tanto quando parla inverte delle consonanti, ad esempio gamba diventa banga, cinema diventa cimena, morbido, sì. Morbido, e volevo sapere se questo può essere un campanello d'allarme per futuri problemi di apprendimento. Professor Stella, prendiamo spunto dalla telefonata di Alessandro per dare alcune indicazioni ai genitori all'ascolto. Dedicheremo poi una puntata sul linguaggio dei nostri bambini, ma intanto qualche indicazione, professore. Beh, allora, questo problema sembra essere un problema di programmazione fonologica, e cioè quando noi produciamo le parole... mettiamo delle sillabe in fila e sì. Ovviamente questo programma sequenziale deve rispettare alcune regole, che sono le regole cosiddette fonotattiche della lingua, no? Perché se, come ha fatto l'esempio il genitore, dico morbido invece di morbido, non corrisponde a nessuna etichetta lessicale, quindi a nessun significato. Quindi il rispetto della sequenza serve per costruire una struttura fonologica riconoscibile. Quindi questo di solito il bambino organizza il linguaggio prima di tutto ripetendo sillabe, si chiama l'allazione canonica, in cui c'è una sillaba che si ripete come mamma, papà, tata, cacca, pipì, eccetera. Poi nel tempo questa capacità si sviluppa e si presenta la cosiddetta variazione delle sillabe, cioè il bambino che invece che dire mamma, papà e cacca può dire potta o totta o nonna e non solo nonno o nanna. E pian piano si organizza la struttura sillabica complessa. Professore, quando il bambino inizia, perché siamo in chiusura e ho anche quando il bambino inizia a fare una breve frase, a comporre una breve frase, non solamente mamma, allora, papà, ma all'incirca, in quale tempo dobbiamo aspettarcelo? È molto variabile, quindi bisogna prendere con le pinze. Ci sono, i bambini possono cominciare a produrre brevi frasi già da un anno e mezzo, anche a volte anche prima, ma comunque ai 18 mesi compaiono le frasi e c'è un incremento ogni mese di 100 parole di sviluppo, quindi lo sviluppo c'è, cioè, come si dice, un'esplosione del linguaggio. E poi quando iniziano a parlare, professore, non parlano più, ma noi parleremo del linguaggio del bambino prossimamente col professor Stella, perché il tempo mi sta sfuggendo. Abbiamo Susanna da Roma. Susanna, buongiorno. Rapidamente mi segnalano che lei partecipa al nostro quizzettone per ricevere a casa Guida al Benessere. Susanna, quali sono le due aree e come si chiamano? Salve, buongiorno. Le due aree dovrebbero essere l'area di Broca per la produzione e l'area di Wernick per la comprensione. Professor Barbanti, ha detto giusto? Susanna ha detto giusto. Non a caso è una donna. Io vi devo salutare, Susanna riceve a casa Guida al Benessere, ringrazio Francesca Dragotto, il professor Barbanti, il professor Stella, Laura Vanossi in redazione e Matteo Comes in regia alla parte tecnica. Voilà, per oggi è tutto, a lunedì.